questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pensate che il primo messaggio che ricevo oggi è Napoli-Atalanta, messaggi vostri, 349-238-6666, Franco Pietrini in redazione, Capitan Fabio Cantadoni in regia. Il messaggio è questo: Napoli-Atalanta, l'esempio più lampante di partita falsata dagli arbitri. Fino a quel momento l'Atalanta era stato superiore e aveva più voglia di vincere. Ciao Pardo. Ciao, come va? Benissimo. No, non mi puoi chiedere per gli arbitri alle 14.06, dai, ci sono anche proprio... Cosa vuoi chiedere? Non mica io, eh. No, ma anche perché, quell'episodio, insomma, in Coppa Italia la guardiamo con gli occhi semichiusi, no? Ogni tanto si trova qualcosa di meraviglioso come il gol di Caleon. Io non ho visto la partita, premetto, quindi posso dare un giudizio solo sugli highlights. Anch'io. Però mi ha fatto ridere da morire il gol subito dall'Atalanta, quel gol di Insigne, perché è paradigmatico del difficile rapporto che abbiamo con chi dirige le partite. Cioè vedi un difensore che è del grosso, parte un lancio su cui può intervenire anche lì con gli occhi bendati un giocatore di Serie A, la stop e fa quello che vuole, e invece come parte il lancio si gira e guarda l'assistente, ma robe da matti. Il Napoli meritava di beccare quel gol, tra l'altro del grosso ha dimostrato di non conoscere il regolamento, perché il gol era buono sulla base delle nuove regole. Colantuono l'ha ammesso, sì guardate, non facciamola troppo lunga, il gol era valido, Senti, visto che non vuoi parlare di arbitri alle 14.10, 800 24 00 24 è il numero verde. Io sai cosa faccio? Sai cosa faccio? Dimmi. Ti faccio sentire Rizzoli, designato per i mondiali in Brasile, sei contento? Beh, ho dato la notizia ieri perché fossi bravo, è arrivata la mail della FIFA e quindi ho semplicemente fatto un tweet ieri mattina. E beh, insomma, sei entusiasta. Un convincentissimo, me ne può fregare di me. mi sembra che abbia avuto varie fasi della sua carriera, una fase molto positiva all'inizio, qualche problema, un calo negli ultimi anni, però mi pare che si sia rimesso sulla giusta strada, quindi mi sembra che sia. Non credo neanche che sia un pretesto a sorpresa, si sapeva che sarebbe stato lui. Sì, ma poi anche se era un altro, pazienza, ce ne saremmo fatti una ragione, per quelli che ci può importare. Comunque, Rizzoli, eccolo qui. È l'emozione, nonostante uno possa essere consapevole piuttosto che sperarci ed essere quasi convinto, certo, di poterci andare, nel momento in cui leggi una mail che arriva dalla FIFA con scritto Brasile 2014, l'emozione è veramente grande, ma veramente tanto grande, difficile da spiegare, da descrivere. Un coronamento, credo che non dico di un sogno, però una partita, che un mondiale, scusate, che chiunque vorrebbe fare nella propria carriera, non solo chiaramente da arbitro ma anche da giocatore, quindi entusiasmo, tanto entusiasmo. Vabbè, quindi gli arbitri parlano, ma qualche volta io sono sì, hanno il dono della parola, dei pensieri dei pentimenti, dei pensieri privati. Ma guarda, io sono sempre stato favorevole all'arbitro in conferenza stampa, ma credo anche tu, non abbiamo mai parlato. Però... ma è assolutamente così, anche perché è nell'interesse della classe arbitrale, poi è chiaro che è più pigro e più comodo dire agli arbitri non parlano, gli errori si accetta come un male necessario, il fatto che la gente abbia cattivi pensieri, eccetera, quindi questo è chiaro. Però in generale io penso che la comunicazione in questo mondo qui sia fondamentale, e se parlano gli arbitri, parlano gli allenatori, parlano i giocatori, parlano gli opinionisti, parlano i tifosi, parlano i giornalisti, parlano tutti, gli unici non parlano sono gli arbitri, che sono, quindi a quel punto non possono neanche eventualmente difendersi da sospetti o critiche molto veloci, per cui perché no? Vabbè. Comunque guarda, qui siamo all'esegesi del testo. Filippo da Luca: per essere valido il gol il difensore deve giocare volontariamente la palla, no, così non è stato, leggete bene il regolamento, addirittura Colantuono sbaglia. Vabbè, se sbaglia Colantuono che alleni in Serie A possiamo sbagliare anche noi, e non sbagliamo perché il regolamento dice che quel gol è buono, quindi Colantuono ha detto la verità. Stiamo tergiversando, cosa ne pensi di Pescante e della sua uscita assurdo che gli Stati Uniti mandino a Sochi quattro lesbiche? Questa è l'affermazione più raccapricciante degli ultimi tempi, mesi, non so. Tra le lesbiche sono due. Dobbiamo una è un'icona. Io dopo lo voglio fare, anche perché poi voglio commentarla. Sì, forse c'è ancora bisogno di commentare, di dire che è una delle uscite più incredibili, assurde, retrograde. Che abbia mai sentito e triviali insomma, che abbia mai sentito le parte comunque di intelligenza che insomma nella sua vita un po' di cose le avrà viste, no? Non è un le avrà viste se le ricorderà. Poi Pescante mi fa morire da ridere anche quando dice che i giochi non possono essere il palcoscenico per rivendicare diritti che lo sport sostiene ogni giorno. Le Olimpiadi sono sempre stati un palcoscenico mondiale. Io non voglio andare ad eventi drammatici, Monaco 72 che Pescante si ricorderà benissimo. Poi racconterò più tardi, racconterò invece una magari una storia se mi gira, racconto una storia che è quella della, anzi lancio la palla agli ascoltatori, chi di voi 800240024 si ricorda la storia della nazionale lituana di pallacanestro alle Olimpiadi di Barcellona 92? Tu non la sai, vero Pier? Io non me la ricordo. Poi te la racconto anche a te perché è meravigliosa. C'entrano i Grateful Death. Lancio questo indizio. Tutti convocati. Molto felice. Il presidente l'aveva detto ai nostri microfoni 2 anni fa che saresti diventato l'allenatore del Milan. Sì, diciamo che mi dispiace di vedere la situazione ovviamente del Milan così, ma faremo di tutto per riportare il Milan in alto. I tifosi aspettano che ci rimetti a posto. Sicuramente ci lavoreremo tantissimo. Tornare a casa è sempre bello. No, è emozionante, sono molto molto felice per questo, spero che questo entusiasmo possa essere trasmesso anche la squadra che ha bisogno e anche i nostri tifosi che hanno bisogno di questo entusiasmo e poi trasformarlo in risultati positivi. Io non posso fare a meno di una dose ogni tanto di Maurizio Crosetti. Vabbè, datti torto. Senti, hai ragione. Le ragioni del cuore. Seedorf entra nel Milan dicendo non sono mai andato via, frase che i bookies non avevano nemmeno quotato, se no avrei scommesso tutto come nemmeno James Bond in Casino Royale. Beh, però adesso te ne posso dare una in anteprima che sicuramente è da giocare, è quotabile. Sì? Lui adesso dirà che per il Milan saranno tutte finali. Ah. È una cosa nuova, giocala e potresti vincere anche tipo 0,5 centesimi. Ma secondo me non è uomo da per il Milan sono tutte finali. Vabbè, sì, che non era è banale. Cosa dirà Pardo? Cosa dirà Seedorf? Ma dirà il Milan è il mondo è il Milan, non ci si separa mai dal Milan perché il Milan è nell'aria, anche in Brasile si parla di Milan tutti i giorni, non lo so, No, comunque non sono mai andato via, appunto è non... bella ma dai. Che bello, cosa c'è di bello? Vabbè, in effetti se ci pensiamo non è che sia sbagliato anche. Ogni mattina Allegri apriva l'armadietto e ci trovava dentro Seedorf, cioè, è vero questo, ma è vero. Scusa, perché secondo te non si sentivano con Berlusconi? Non ci sarà stata qualche telefonata? Sì, che poi Allegri già quando ce l'aveva le dipendenze come giocatore, Seedorf lo vedeva come il fumo negli occhi. Sì, beh, insomma, sono, guarda, io oggi pensavo questa cosa, non me ne voglia nessuno dei due, in particolar modo Allegri, che sono due tipi umani completamente diversi, nel senso che tanto Seedorf è glamour, sei lingue parlate, interessi in tutti i paesi, insomma, cittadino del mondo, un politico soprannominato Obama dai giocatori del Milan, dall'ambiente Milan. Io poi adesso poi vi racconto una cosa su questo. E Allegri invece è uno che di fondo, e io in questo lo amo, è uno che c'ha sempre il pensiero del barchino e degli amici a Livorno pronti, no? Nel momento della grande tensione di quest'anno dopo Milan PSV, quando lui improvvisamente sbrocca perché si è qualificato e si toglie un po' di sassolini, parla di Canotti, lui vede già l'isola d'Elba, capito, all'orizzonte. Sì. E stare lì al mare, rilassarsi, quindi ed è provinciale, ma provinciale nel senso sano, è bello del termine, non c'è un giusto e uno sbagliato, però sono completamente diversi. Uno è proprio olandese, re dei commerci, tre Champions, primo a vincere 3 Champions League con 3 squadre diverse, ma veramente poi un politico. L'altro è un allenatore che nasce in provincia, di grande talento, che al Milan c'è stato anche bene, ma che secondo me ha comunque dovuto fare uno sforzo di adattamento a una cornice che non era la sua. Comunque restano le ragioni del cuore. Pazzini torna a segnare, Onda lo fa per la prima volta, poi c'è, su questo voglio un commento di Onda Crosetti. Onda è forte, però, ragazzi. Onda è forte. Onda è forte. Che se no poi, capito? Voglio un commento di Crosetti su, ovviamente su Pescante, che fruga invece ragioni del cuore in modo maldestro in quello altrui. Oggi ho cercato di mettere una pezza, non sono omofobo, sui gay ho usato termini impropri. Poi cosa ha detto? Non ha detto nient'altro, meno male. Per fortuna non ha detto nient'altro. No, per fortuna no. Putin è intervenuto, Putin, le Olimpiadi invernali si svolgeranno nel pieno rispetto della carta olimpica, senza alcuna discriminazione, certo che puoi, sei qua apposta. Ecco, dico, pensa se era omofobo, no? Visto che non è omofobo, ha detto queste cose, pensa se era omofobo che diceva. Sinceramente, insomma, no, dai, adesso direi che l'unico commento che si può fare è che la classe dirigente italiana, non solo sportiva, parliamo di sport, diciamo la classe dirigente sportiva italiana è composta da tanti, troppi burosauri, personaggi che stanno lì dall'epoca dei dinosauri, insomma, no? Perché sono loro stessi dinosauri. Uscite come quelle di Pescante spiegano perché non siamo mai riusciti a rimuoverli, ma è anche, come dire, aggravano anche la posizione di chi non è mai riuscito a sostituire questi personaggi. Sì. Ci li siamo tenuti per una vita e sono pure soggetti del genere. Senti, per curiosità, tu, Mao, ti ricordi la storia della nazionale lituana di basket al 92? Io francamente quel giorno lì ero assente perché spiegavano, ma io avevo l'influenza. Avevi l'influenza, no, benissimo, poi vi porto a scuola, ragazzi. Sì, Comunque le quattro lesbiche sono Billie Jean King, cioè un'icona dello sport contemporaneo, così per gradire, e Kathleen Crethow, che è giocatrice di hockey, che ha fatto outing, va bene. Invece un altro tema per Crosetti, perché l'altro giorno Marino Bartoletti, parlando qui con noi sull'Inter, ha usato una perifrasi dicendo: comincio ad avere l'impressione che Toir ci stia prendendo tutti per il culo. Ah, scusa se ho detto Toir, e poi ha detto scusate se ho detto Toir. Sì. No, per il sedere no, forse si pensava che fosse una reincarnazione di Abramovic o uno sceicco travestito da giapponese o da indonesiano, no, è uno che è venuto a comprarsi dei debiti. Nella vita si può comprare qualcosa di più interessante. Lui si è comprato dei debiti e evidentemente non ha voglia di comprare dei giocatori. Bisognerebbe spiegargli che però le squadre di calcio non si fanno con 11 debiti comprati, ma con 11 discreti giocatori più le riserve. Quindi non sta mantenendo le promesse, come viene sottolineato. Più che preso in giro, secondo me è stato un po' equivocato, cioè si avevano delle aspettative su di lui. Si hanno, è un po' presto per giudicare, sì. Ma probabilmente lui non è quella roba lì. Quella roba lì non lo è sicuramente. Ci sono ancora dei nomi che vengono fatti in queste ore. Si è parlato anche di una parziale retromarcia da parte di Toir, che sarebbe disposto qualche acquisto a farlo. Io penso che alla fine anche Moratti, se dovesse continuare questo tipo di situazione, finirebbe per trovarsi in imbarazzo, perché è chiaro che lui è dovuto uscire da una situazione appunto di debito e ha fatto giustamente i suoi affari, i suoi calcoli, ci mancherebbe altro, e non è che uno nella vita deve fare presidente tutta la vita, cioè sei libero di vendere o di disinvestire, però comunque conserva un ruolo di garante quasi agli occhi dei tifosi. Quello lì è l'uomo al quale ha venduto, avranno parlato di progetti, di programmi, di cose da fare, no? Sì, e quindi poi se dovesse anche continuare, dei patti, ripeto, siamo all'inizio, ma se dovesse continuare questo tipo di policy, a quel punto poi credo che anche Moratti finirebbe per trovarsi un po' in imbarazzo, perché mentre Toir comunque alla fine è un uomo di business, non è che ha un rapporto storico con i tifosi dell'Inter, Moratti questo rapporto ce l'ha, e quindi anche se resta una quota di minoranza, io credo che prima o poi qualcuno un po' il conto glielo chiederà di questa cessione e delle prospettive dell'Inter. 800240024, numero verde. Senti, Pierluigi, mi racconti quella storia di Obama? So che il soprannome l'ha coniato Cassano. Ma guarda, sì, la leggenda dice questo. Io, no, a proposito di Cassano e di Seedorf, posso... Dimmela. Testimone oculare, insomma, quando Cassano è stato male, c'erano le visite, insomma, diciamo dopo qualche giorno sono stato ammesso anch'io alle visite, ovviamente, sì. Pericoloso reporter, ma insomma ero lì più che altro perché avevo avuto paura, come tanti, che le cose fossero andate male, e quindi c'era la delegazione e ci fu a un certo punto un discorso di Seedorf, veramente da allenatore, da da leader spirituale, diceva praticamente che i tempi di recupero non dipendevano dalla malattia o dal cuore, ma dipendevano soprattutto dalla sua testa. Sì. E mi ricordo che insomma Antonio era un po' più fatalista da questo punto di vista, diceva vediamo, speriamo che cosa succede, fa no, dipende da te. Era uno di quei discorsi motivazionali, sì. però ti dico la verità. Però ti dico la verità. Se me lo ricordo questo discorso a distanza di anni, è perché evidentemente il carisma del personaggio si sentiva, cioè comunque aveva fatto scattare dentro di me la scintilla dei grandi uomini di sport, dei grandi manager, che praticamente tu sei artefice del tuo destino, che non c'è nulla di impossibile, certo. Come recita lo sponsor. Ma quello recita lo sponsor. No, ma quello lo è, certamente, però se si mette a fare il guru, allora quella frase saranno tutte finali, caro Maurizio Grosetti, non la pronuncerà. Invece, un'ultima cosa che ti voglio sottoporre, l'ho detta prima, arbitri. Io ho trovato, hai visto il gol del Napoli ieri sera, no? Quella carambola sulla schiena del Grosso, insieme. Vabbè. Ho trovato quel gol, dicevo prima, paradigmatico del nostro modo di rapportarci con chi ha il fischietto. Cioè, parte una palla su cui il difensore può intervenire anche bendato, no? Un difensore di Serie A, perché gli arriva in bocca. Invece di giocare quel pallone, si gira verso il guardaline per protestare. La palla gli rimbalza sulla schiena e insegna fa gol, regolare peraltro. Non lo trovi? Vedi che protestare serve? Uno non lo trovi paradigmatico? Sì, è la prova che il vizio, diciamo, della lamentela, della lagna molto italiana, è diventato invece uno schema tecnico-tattico. Cioè non era un problema psicologico, non eravamo deboli e dunque piagnina, ma sapevamo che voltandosi, ecco che la carambola avrebbe prodotto uno schema. Quindi noi siamo molto avanti, noi italiani siamo molto molto avanti. Grazie Maurizio, ti abbraccio. Ciao Pier. Ci siamo sparati la dose settimanale di Crosetti, ne avevo bisogno. Pierluigi Pardo. Allora, io ho perfino un ascoltatore che mi scrive che Pescante ha ragione, vedete un po' voi. Poi ce ne saranno, vabbè, ma ragazzi. Non lo so. 349-238-6666. Mentre ne ho un altro, Stefano, che scrive: Pescante non ha smentito dicendo ho tante amiche lesbiche? No, ha smentito dicendo che non è omofobo. Senti, ma oggi primo allenamento dunque di zio Clarence al Milan. Secondo te, informazione, che cosa cambia per domenica con il Verona? Quale sarà la sua prima mossa? Ma io credo che lui sia per la qualità. Quindi? Anche se poi, sai, questa cosa è strana, perché ci sono stati poi attaccanti che in carriera poi sono messi a fare gli allenatori e sono diventati gli allenatori difensivi, sì, e viceversa. Cioè non c'è sempre una corrispondenza fra il giocatore che era in campo e il tipo di calcio che ti piace. Io penso però che Kakà giocherà dietro le punte, anche se in prospettiva io credo che Kakà possa anche essere arretrato. E io penso che giocheranno con... Davvero pensi che possa essere arretrato? Cioè fare il centrocampista? Tra qualche anno, sì, secondo me. È chiaro che Kakà non è Pirlo, no? Perché la grandissima qualità di Kakà è nella progressione. Per sì, però scusami Piero, arretrato vuol dire che dovrebbe anche fare l'interditore, perché Pirlo è diventato Pirlo quando ha cominciato a fare una fase di interdizione per cui deve avere gambe. Sai che Pirlo, tra l'altro, eccetera. Adesso mi viene in mente, si arrabbia molto... Cioè è una cosa che sottolinea il fatto che lui non è soltanto uno straordinario regista, un geometra di centrocampo, ma è anche un giocatore che recupera tanti palloni. È una cosa che ho espresso varie volte, me lo ricordo nitidamente in una conferenza stampa all'Europeo, dopo Italia-Inghilterra, quella del cucchiaio, ma sì, insomma è un tema a lui molto molto caro. Ma guarda che è verissimo, perché comunque non avesse, cioè la genialità del lavoro che è stato fatto su Pirlo da Ancelotti, ma ricordiamo che in quel ruolo l'aveva intuito Mazzone, nel Brescia, però la grandezza di quel lavoro è stato proprio trasformare Pirlo in un giocatore anche difensivo, in un recuperatore di pallone, comunque in uno che la fase difensiva la sapeva fare. Comunque insomma, adesso sono Balotelli, Onda e Kakà che devono giocare tutti e tre, quindi Balotelli, Onda, Kakà. Beh sì, quindi adesso non è 4-3-2-1, senza... io penso che giocherà così. Pazzini può servire al Milan? Pazzini nel disegno, a chiunque, ma da titolare dico, nel disegno di è chiaro che se a quel punto devi mettere dentro anche Pazzini o arretri Kakà da subito ed è abbastanza complicato, oppure inevitabilmente Pazzini un pochino fatica, certo. Oppure togli Onda, ma insomma io ho grande fiducia in Onda perché è un giocatore nel pieno della sua carriera ed è un giocatore tecnico buono. Poi avrà non è un genio del calcio, ma è un giocatore comunque di qualità, è un giocatore, un trequartista, un giocatore che ha gol, che calcia le punizioni, che insomma adesso verrà pochissimo, ma l'altro giorno è entrato, ha preso un palo, ieri ha segnato, insomma all'inizio è stato già incoraggiante, quindi, ed era uno che non giocava da parecchi mesi, quindi io penso che sia difficile togliere Onda dalla formazione. Pazzini serve sicuramente, sì. Balotelli lo può pure far partire un pochino più largo, però ti rimane sempre il discorso delle, no, ma è chiaro, dei quattro giocatori per tre maglie. È chiaro. 800240024, dopo la borsa cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Grande Gennaro da Napoli che scrive: se ben ricordo, Grateful Dead sponsorizzarono la partecipazione della Lituania alle Olimpiadi con tanto di divisa psichedelica. Non è esattamente così, ma bravo Gennaro. Convocati. Gli avrebbe parlato sempre in termini propri, anche perché non saranno donne ma saranno uomini icone della lotta all'omofobia quelli che manderebbero gli Stati Uniti. Però il mio discorso è un pochino più complesso, nel senso che uno dei titoli visti dai giornali, Pescante dice che la politica non deve entrare nello sport. Falso, la cattiva politica non deve entrare nello sport, non la buona politica. Il mio rammarico qual era? È che lo sport quotidianamente, proprio perché lo pretende la carta olimpica, ma fa parte del nostro DNA, non lotta contro ogni tipo di discriminazione. Avermi definito come omofobo, beh, insomma, mi fa solo sorridere. Allora, io sento rumore di unghie che graffiano i vetri, mi fa venire la pelle d'oca, così come leggere un'intervista su Libero, Pescante due punti, gay strumentalizzano i giochi. Vabbè. Sì, ma comunque posso dirti, siccome sì. Poi io non lo so, sono un uomo, parole grosse, voglio dire, cioè alla fine l'importante è il risultato finale, no? Nel momento nel quale sì. Pescante dice una cosa che chiaramente è una, insomma, è una boiata, no? Probabilmente sarà stata, diciamo, un po' tirata per la giacchetta. Sì. Sarà stata no, ma l'ha ripetuta due volte, quindi era studiata. Punto si chiede scusa, si dice non intendevo dire questo, e già è un risultato, perché già vuol dire, insomma, che se uno dice una cosa che è chiaramente offensiva, poi chiede scusa. Ecco. Sì, quindi, sì. Vabbè, stiamo a vedere, se non lo diceva era meglio, l'ha detta due volte, ripetuta due volte in due circostanze diverse ieri, quindi sì, non penso fosse casuale. Comunque vorrei fare chiarezza, visto che sono molti gli ascoltatori che inviano SMS, ma come quel gol, palla, il tocco del difensore dell'Atalanta? Allora, per ragioni di sintesi, leggo dalla Gazzetta dello Sport la moviola, ma è questa: il secondo gol che il Napoli ha fatto e farà discutere, ma è regolare. Sul lancio di Reveillère il fuorigioco di Wayne è virtuale, perché non va considerato finché non arriva il pallone all'argentino, questo sulla base delle nuove regole. Infatti Guardarini alza e poi abbassa la bandierina, correttamente. Del Grosso invece, dimenticando le nuove regole, appunto, si ferma e alza il braccio, il pallone gli sbatte sulla schiena e finisce in segna che è in sacca. Il tocco del difensore non avrebbe rimesso in gioco Higuain essendo involontario, ma in questo caso il pallone va a un altro giocatore, dunque tutto regolare. La regola è questa. Mi viene a dire che lo spirito del gioco, adesso non so se tutti i nostri ascoltatori l'hanno visto, io consiglio di andarselo a cercare perché è veramente abbastanza comico, più chiaramente arriveranno più tifosi del Napoli, quelli dell'Atalanta, però l'episodio di per sé è comico. Sì. E secondo me, per carità, regolamento applicato bene, ma rimane una regola con questa nuova interpretazione, cioè rimane un caso nel quale lo spirito del gioco secondo me viene abbastanza depresso da questa interpretazione, perché lì c'era veramente solo un giocatore del Napoli, il pallone poteva finire soltanto a lui, il fuorigioco era enorme e quindi a me deprime di più il difensore che si gira a protestare invece di giocarla. Comunque, a me deprime di più quello. Poi c'è anche Paparesta che dice che era irregolare, non so perché, su quali basi, mi diceva prima. Però è un gesto istintivo, dai, cioè c'è un fuori gioco istintivo qui, Pier. Cioè, a me verrebbe distinto gioco la palla e poi vediamo. Dai, ma no, la palla in gioco, con la palla in gioco del Napoli che fa questo lancio, tu c'hai uno dietro di te, è soltanto lui, dice "Oh, ma è no, secondo me il gesto è istintivo, poi per una clamorosa concatenazione di sfighe, chiaramente questo gesto l'ha pagato tantissimo, per cui col senno di poi gioca a tuo pallone, spazza in tribuna e che ti frega. Gioca a tuo pallone, spazza in tribuna e poi vediamo, insomma, anche perché era un intervento per un difensore molto semplice, sulla traiettoria di quella palla. Comunque, Massimo Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno ragazzi, a tutti e due. Ciao. Pronto? Ah, pronto. Guardi, io ho telefonato, chiedo scusa a Carlo, sono anche un grande suo estimatore, però vorrei fare i complimenti a Pierluigi. Sì. Sì, fa bene. Grazie. Particolare Pierluigi per il discorso che ieri ha fatto sull'Inter, perché veramente mi è piaciuto, ha detto esattamente quello che penso io. Sarebbe? Non mi ricordo più. Sui rigori. Quando ha detto sui rigori, sulla storia dei rigori. Sì, sulla storia dei rigori, cioè che è assolutamente giusto che l'Inter pensi a migliorarsi sotto tutti i profili. E che le colpe, diciamo, è una squadra da sesto posto, da quinto, ecco, quindi non si può pretendere niente, anzi bisogna lavorare per migliorare se stessi, però che a un certo punto è anche giusto lamentarsi, insomma, perché quando è troppo, ecco, ultimamente un conto è perdere a Roma con la Lazio quando non tiri mai in porta e poi è inutile prendersela con l'arbitro, però col Chievo l'Inter ha avuto una reazione da grande squadra dopo il gol subito, quindi lì, insomma, lì dà un po' fastidio. Sì. Questa era la summa dell'intervento di ieri per Luigi Pardo, che non avrà cambiato idea oggi. Soprattutto dal nostro punto di vista, cioè di chi giudica, al di là di quello che deve fare la società, a me, insomma, il piagnisteo non piace da parte dei diretti interessati in assoluto, ma io quello che sottolineo è che noi che siamo qui a giudicare la stagione dell'Inter e diciamo giustamente che c'è stato un calo netto, evidente rispetto alla prima parte della stagione, e anche che io non riconosco una squadra mazzarriana per tutta una serie di caratteristiche e di errori che vedo, però allo stesso modo devo anche cominciare, siccome gli episodi cominciano a essere tanti, questa cosa secondo me un minimo di tara va fatta, sì. Anche perché poi, come diceva ieri un altro ascoltatore, il risultato ti cambia, ti cambia l'umore, ti cambia il lavoro durante la settimana, questo è sacrosanto, non, quando non vinci soprattutto questi episodi per queste situazioni e poi comunque ti senti un po' perseguitato, entri in un loop che non finisce più. Tano, Milano, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Pierluigi, ciao. Buongiorno. Niente, avevo un paio di considerazioni, una è una domanda più che altro, perché non ho capito se stavate facendo la trasmissione, mi piace naturalmente perché vi seguo sempre, però volevo capire se era un'ironia che facevate nei confronti di Clarence o... No, che ironia? Se, perché? In che senso? Nel senso che ne parlavate come bambagiarlo, ma... Ma mi sembrava, mi dava l'idea. Chi è Bambagiarlo? Cos'è Bambagiarlo? Bambagiarlo sembra coccolarlo, non so come. Ah, come ho capito, definire. Da Bambà, deriva da Bambagia. Ah, ok. Da Bambagia, okay. Esatto. Mi dava l'idea che era, c'era dell'ironia, però è una domanda. No, la mia è una domanda. A me l'ironia scappa ogni tanto, quasi involontariamente, ma non giuro, non l'ho fatta su Seedorf. A me piace, io ribadisco quello che ho detto ieri. Seedorf è un uomo di carisma e talento. A me il carisma e il talento piacciono, credo che siano spesso poi portano invidie. Quindi questo insomma, è un motivo che spiega tutta una serie di cioè è impossibile che un personaggio col carisma di Seedorf non abbia della gente che sia in qualche modo invidiosa e che non lo e che lo avverti. Sì, detto questo, non è un allenatore che è diventato tale prendendo il volo da Rio ad Amsterdam e poi a Milano, quindi è diventato su quell'aereo, si è trasformato, no? Quasi mi viene da vederlo. È una scommessa di Berlusconi. Che Berlusconi aveva fatto tanti anni fa. Sì, però io dico una cosa, che se c'è un calciatore intelligente, carismatico, del quale abbiamo sottolineato la capacità mediatica, uno che andrà a parlare con gli allenatori, con gli altri... Sicuro, non ci annoieremo neanche in conferenza stampa, sicuro. Ha tutti i presupposti per poter fare una grande carriera, poi se la farà non lo so, perché poi allenare è anche crescere dal punto di vista tecnico, avere delle doti di leadership che non sappiamo se ha, però a vederlo da fuori mi sembra uno che questo lavoro lo può fare molto bene. Sì, è certamente stato secondo me uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, hai ragione, se c'è uno che ha le doti caratteriali per fare allenatore è Seedorf. Filippo Maria Ricci non lo so se ha le doti caratteriali per fare l'allenatore. So che ieri in compenso ha fatto il giocatore Filippo Maria Ricci. L'allenatore abbiamo perso malamente. Che partita del cuore era? Che partita del cuore era? No, che partita del cuore? Qua è la Liga de los Medios, il campionato dei giornali. Io ho raccolto tutti gli apatridi, tutti quelli che non hanno un giornale come me, una redazione. Si raccolgono, quindi siamo tutti molti stranieri e come vi chiamate? Sparso, Los Pardos. E poi saremo santi solari, però non viene mai. Allora speriamo che almeno venga sua sorella lì una volta a fare il tipo. Comunque perso, asfaltati, no? Giusto? Sì, sì, asfaltati quasi regolarmente, cioè un anno siamo arrivati fino alle semifinali, però adesso non so, forse siamo vecchi. Forse no, quest'anno forse no, vi serve un allenatore. Sì, esatto. Chi c'è sto testa alla classifica? Per auto esonerarmi. Chi c'è testa alla classifica? Eh? Chi c'è in testa alla classifica? Marca? Chi c'è? No, la Fer, nel nostro girone è la Fer. Però il campionato l'ha sempre vinto Marca e l'anno scorso l'ha vinto Televisione Spagnola, cioè la TV. La Marca, diciamo la verità, gli arbitraggi sono sempre a favore di Marca. Sono sempre a favore di Marca. Sono pilotati. L'arbitro è sempre lo stesso, c'è solo un arbitro, figlio di arbitri. Tra l'altro, suo padre era arbitro della Liga e c'è sempre lui da 4 anni, quindi ormai ci conosce perfettamente. E quindi gli strenzi sono all'ordine del minuto più o meno. Però... Ma tu pensa che situazione? Pensa che situazione, Parvio. Cosa darei per vedere una partita di Io ho giocato tanto anche nei quasi litiga meno, devo dire. C'è stata bellissima, c'è solo una partita che è finita in rissa perché era la grande sfida tra Tiki Taka, che non è la trasmissione Pierluigi, ma un altro omonimo qua spagnolo, e Punto Pelota, che sono i grandi rivali notturni derby. E si sono confiati. Derby fra i programmi cazzari, possiamo dirlo. Esatto, pessimi programmi, ed è giusto così. Come pessimi programmi? Però non accostiamo a Tiki Taka comunque l'aggettivo pessimo, anche se parliamo di Spagna, voglio dire. Potremmo ingenerare comunque confusione. No, ci sono polemiche perché c'è. Grazie, un attimo. Tutti convocati. Spagna con gli arbitri non si litiga mai, qui invece c'è processo alle intenzioni. Un ascoltatore che scrive: convinto al 150.000% che se fosse stato contro il Napoli la bandierina sarebbe rimasta alzata, ma ascoltatore che non ti firmi, giuro che l'Atalanta non mi sta sulle scatole per niente, anzi è una squadra storica del calcio italiano, la Dea mi è anche piuttosto simpatica. Ma io voglio tornare da Filippo Maria Ricci con questo imperdibile racconto di ste sfide. Io so perché voi ieri siete stati asfaltati, perché eravate ancora tutti ubriachi per festeggiare CR7 Pallone d'Oro. No, è vero che c'è qualche, ovviamente seguendo tutta la gran parte della squadra, segue per professione il Real Madrid, c'è qualche tifoso, ma ci sono anche degli acerrimi avversari del Real Madrid. La grande festa l'ha fatta il Real Madrid, io l'ho scritto ieri, e per me questo è il grande lavoro di Ancelotti. Ovviamente non è il Pallone d'Oro a Cristiano Ronaldo, che se l'è meritato anche da solo, però è il grande clima che si è instaurato a Valdebebas dopo 3 anni di guerra murignana, guerra tra bande, e questa è la grande differenza. E Casillas ha votato Ancelotti, adesso non sappiamo se l'ha votato, come dire, quasi per rinfacciarglielo, però in generale si respira un altro clima, nonostante ci siano problemi come la panchina di Casillas o le critiche a Sergio Ramos e via dicendo. Sì, che Casillas voti Ancelotti mi sembra, questo sì, ironico. Ma guarda, dipende, non lo so, mai dire lo so, mai, è un non lo so, può dare spazio a varie interpretazioni. Peccato che non venga a raccontarcelo, perché ormai purtroppo i giocatori parlano poco, sì. Però sarebbe interessante sentire da lui. Sì, vabbè, sei ironico, però è un bel gesto comunque, secondo me. Lo è. Infatti, non lo so, mi piace. Se non è ironico, è un bel gesto lo stesso, dai. Non lo so, insomma, è comunque tanto non lo sapremo mai. È un segnale di qualcosa di. Cioè, ti ho detto, se anche fosse una polemica o fosse una ironia, meglio di quello che succedeva prima, che si andava a tirare la giacca a Florentino Perez dicendogli per favore questo me lo cacci via, oppure lo stesso quell'allenatore faceva filtrare notizie pessime sul portiere. Ragazzi, ma è un altro mondo, posso dire? Certo che puoi dire. È un altro mondo, cioè Ancelotti ha detto a Casillas che gioca le coppe, che chiaramente sono meno partite, ma potrebbero essere potenzialmente anche più importanti. Posso dirti invece io che a me questa scelta in generale non piace, cioè non mi piace questa divisione tra portieri. Al di là della scelta e della divisione, Ancelotti ha essenzialmente confermato nella sostanza il suo predecessore, però è Ancelotti, quindi te lo dice in una maniera diversa, gli vuoi bene perché ci parli e gli vuoi bene, Probabilmente Mourinho, non è che Mourinho sia cattivo, Mourinho probabilmente quel tipo di atteggiamento l'avrà avuto perché pensava di avere una reazione da parte di Casillas, di ingenerare una polemica che potesse essere utile, non lo so. Mourinho è chiaramente mediaticamente molto più smaliziato. Ancelotti è una brava persona alla quale è praticamente impossibile non voler bene per com'è umanamente, e quindi io non sono così convinto che Casillas... No, poi più lineare, voglio dire, cioè con Mourinho non sapevi mai perché faceva una cosa, no? C'era sempre un motivo dietro, e qui ti dico, cioè, c'era Caranca che magari, no, andava a cena col giornalista e gli raccontava una cosa parlando male di Casillas, e poi Casillas magari faceva lo stesso su Caranca e Mourinho andando a cena con gli amici suoi, insomma era veramente avvelenato. Adesso è tutto più normale, poi dopo bisogna vedere se che si vinca o meno, questo è un altro discorso, però è una situazione, si è tornati su criteri sportivi, e l'unità che c'è stato, c'è questo video che hanno girato sul volo di ritorno da Zurigo, c'è un buon clima insomma nella squadra, poi dopo poi si vedrà, però mancava certamente, ma questo faceva parte della confezione Ancelotti, cioè questa era anche una cosa preventivabile, pronosticabile. Salvatore da Milano, ma lei è quello che ha scritto il messaggio chiedete a Filippo Maria Ricci di Morata, Salvatore? No, è un altro Salvatore da Milano? Sì, si vede che siamo in tanti. Allora dica. Allora, senta, buongiorno, io sono tifoso interista e niente, vabbè, ho sentito anche il fatto di qualche punto perso per strada in questo campionato per via di errori arbitrali, rigori non dati o gol fatti e non validati, ma io credo che, almeno io per quanto mi riguarda, sono molto deluso invece di Mazzarri come allenatore, non do la colpa alla presidenza, a questo Toir che non si capisce bene se vuole investire o meno, ma io noto che la squadra non mi piace. Cioè, non mi piace come gioca e secondo me molto, molto di questa colpa lo do all'allenatore. Però gioca più o meno nella stessa maniera in cui nella quale giocava prima, quando vinceva, magari stava meglio fisicamente, era un po' più fortunata, o non so cos'era, c'era ancora l'effetto. Io mi auguro che i giocatori che si sono infortunati, che adesso sono rientrati, possano non vedo giocatori in grado di cambiarti la vita, ma è stato uno straordinario giocatore, certamente potrà ancora fare i suoi gol, però non credo che insomma possano rivoltare l'Inter, è semplicemente comunque questo, dicevo, un loop un po' perverso in cui l'Inter è finita, ma mi sembra grosso modo la stessa di prima. Chiedo allora io a Filippo Maria Ricci di Morata, che è a metà strada proprio tra l'Inter e la Juventus, si legge almeno 13 milioni pare la quotazione. È come dici tu, non è un giocatore che ti cambia l'Inter, è un buon giocatore, può ancora migliorare, ha 21 anni, ha giocato poco, ha fatto molto bene in Serie B l'anno scorso con Real Madrid Castiglia, e quest'anno sono arrivati in due, lui e José, alla prima squadra. José sta facendosi largo a sportellate, perché è un giocatore molto un po' alla Ronaldo, molto impetuoso, che si ama molto e si sta mettendo in evidenza, e Morata è rimasto un po' a metà, si è visto anche poveretto ieri sera, è entrato al primo minuto, si è preso sto colpo sull'occhio, sono quelle cose, quegli incidenti fortuiti che però insomma dimostrano sempre che il giocatore non è sereno, e quindi è dovuto uscire, poveretto, piangeva lì, c'ha un occhio gonfio. Io lo prenderei in prestito, un investimento da 13 milioni non è esagerato, però dipende. Non è che ti può risolvere i problemi. Lo vedo comunque più all'Inter che alla Juve. La Juve c'ha già Llorente, che è un giocatore non lontano da Morata, perché anche Morata è uno altissimo, alto 1,90, è tecnico, è bravo, è un giocatore d'area, segna tanto. È stato capocannoniere anche dell'ultimo Under 21, l'europeo che la Spagna ha vinto in finale contro l'Italia, però non lo vedrei, non è pronto per essere caricato la responsabilità di risollevare una squadra come l'Inter, insomma. Ecco, alla Juventus probabilmente sarebbe più protetto, però la Juventus tu dici ha un giocatore che adesso sappiamo un po' tutti essere, almeno quelli che non lo conoscevano bene sanno che è un eccellente giocatore come Llorente, che se ne fa di Morata non lo so. Filippo, grazie a voi, grazie, ciao. Enzo da Monza, sì, pronto, buongiorno. Sentivo qualcuno prima parlare, aspetta un attimo perché c'è un po' di... Scusi, Sì, cosa sta facendo? Sto Che fa? Sentivo prima qualcuno parlare di Kakà. Sì? Dicendo che tra qualche anno che Kakà giocherà in arretrato. Qualcuno parla qui? Io sì. Potrei non mi stupirebbe, sì. Non so chi fosse, ma Kakà ha 31 anni o sbaglio? Punto. No, non sbaglio. Quindi? No, vorrei capire, tra qualche anno gioca dietro, sì, dietro la scrivania. Sì, quello qualche anno dopo ancora. Prima gioca a centrocampo, poi dietro la scrivania. No, io penso che sia una normale possibilità di evoluzione della sua carriera. Tanti giocatori che hanno determinate caratteristiche poi vengono arretrati e chiudono la carriera dietro perché cambia la sostanza del loro lavoro, cambia complessivamente. Ma a me sembra già un po' cambiato, cioè non può più essere fisicamente Kakà esplosivo che era, questo sta claro, no? La grande forza di Kakà era la violenza di quelle accelerazioni verticali, più puntava alla porta e ci arrivava col pallone. Adesso è comunque un giocatore diverso, però mi sembra già sia stato bravissimo a reinterpretarsi in questa versione KK.2, no? 2.0, mi pare che si sia reso conto anche lui di questo. Lo vedo sacrificarsi molto, lo vedo applicarsi come sempre con molta volontà, perché il ragazzo sicuramente ha una gran testa, però vabbè, fermo secondo me non credo che più di tanto possa dare adesso, ahimè. No, ma secondo me dà già tantissimo, anzi io ovviamente ho detto molte volte mi sembra un giocatore discretamente finito quando è arrivato, mi sono sbagliato in gran parte perché è stato proprio per la testa che ha, è stato bravissimo così anche a reinventarsi, ha ritrovato una condizione fisica che io non pensavo. Il limite, Pierluigi, è il fatto che questo Kakà non può reggere un eccessivo numero di partite consecutive a quei livelli, infatti era andato incalando prima di Natale, come era del tutto fisiologico, certo. No? Sì, ma è assolutamente, cioè io credo che Kakà stia facendo meglio di quello che ci si aspettava, sta dimostrando di essere un leader della squadra e questo non era scontato sinceramente, insomma, prima del suo arrivo, perché comunque aveva il Real Madrid aveva speso 1 milione per ogni sua partita, questo era stato il calcolo che era stato fatto nei 4 anni vissuti al Real, quindi questo dà proprio l'idea di quanto poco avesse giocato e con risultati molto scadenti, 3 gol nell'ultimo anno. E qui evidentemente c'è una dimensione diversa, c'è più spazio, è un calcio diverso e qua lui riesce a tirar fuori il meglio. Secondo me in prospettiva che lui possa arretrare e fare una parte finale della sua carriera alla Pirlo, diciamo, davanti alla difesa, secondo me è una può essere una un'idea magari di zio Clanes, che ha già detto Kakà è un grande amico, è una possibilità, però oggi sicuramente la sua energia continua a servire al Milan, anche se è vero che rispetto a qualche anno fa comunque un pochino di quell'esuberanza dal punto di vista fisico e della velocità già l'ha perduta e ha cominciato a giocare in maniera diversa. Questo è normale data l'età e i problemi fisici che ha avuto. Pier, grazie, ci sentiamo domani alle 2, eh? Su s'altro. Ciao. Tutti convocati. Dedichiamo a Pescante. La dedichiamo a Pescante, che ha detto che i giochi non possono essere il palcoscenico per rivendicare diritti che lo sport sostiene ogni giorno. Io invece la penso al contrario, dato che mi piace illudermi che non sia un mondo di plastica, penso che le Olimpiadi possano essere anche queste. Alberto da Udine, questi sono i? Pronto? Questi sono i? Grateful Dead. Grateful Dead, sento Jerry, poco, ma sono i Grateful Dead, glielo dico io, sì. Jerry Garcia e compagni. Sì. Sai Carlo che stai toccando un argomento sacro per gli amanti della pallacanestro, perché la squadra del 92 della Lituania è veramente qualcosa di speciale. Non per gli amanti della pallacanestro, ma penso per gli amanti dello sport e forse anche per molti altri. Io certo. Mi auguro e voglio pensare che sia così. Allora, sì. la squadra del 92 della Lituania è speciale perché? È speciale perché innanzitutto ti voglio solo dire che io ho una di quelle maglie dei Grateful Dead autografata da Arrida Sabonis. Davvero? La squadra lo Stato era appena diventato indipendente. Esatto. Tu sai che se la pallacanestro, il dio della pallacanestro è nato a Springfield negli Stati Uniti, sicuramente trascorreva le vacanze in Lituania. Sì. E Marcioni, in Jugoslavia. O in Jugoslavia, sì. Ti voglio dire che a quei tempi Marciulionis era appena andato a giocare col Golden State. Sì. Il figlio di Don Nelson lo ha aiutato a raccogliere i fondi proprio per la squadra lituana. Sì. Perché non avevano il becco di un quattrino per preparare la spedizione alle Olimpiadi, quella del Dream Team di Original One, del Barcellona 92. C'era Lituania indipendente, entrano i carri armati russi in Lituania, c'è una fiera opposizione degli abitanti lituani, parte di colpi, 13 morti tra i lituani, quindi immaginatevi qual era il clima in quel momento. Come dicevi tu Alberto, bravissimo, Šarūnas Marčiulionis giocava a Golden State. Giocava a Golden State e tieni presente che ci sono molti aneddoti, ma comunque loro rompono il cerimoniale olimpico perché proprio molto grati all'aiuto che hanno ricevuto dai Grateful Dead, decidono di andare a ritirare la medaglia di bronzo proprio con queste maglie, sì. Improponibili perché sono psichedeliche, cosa meravigliose, col colore della Lituania che già sono psichedelici di loro, esatto, no? Verde, esatto. Giallo e rosso, maglietta con psichedelica, però attenzione, con lo scheletro che schiaccia. Attenzione, esatto. Però qui hai commesso un leggero errore di ricostruzione, perché Donnie Nelson e Šarūnas Marčiulionis vanno a parlare con i Grateful Dead. No? Il figlio di Don Nelson. Donnie Nelson Jr., certamente. Sì, perfetto. Vanno a parlare e Jerry Garcia, sì? Dice, ragazzi, la vostra causa ci interessa, vi aiutiamo noi, assegno di $5,000 e il diritto di usare quel simbolo che i Grateful Dead avevano utilizzato per una tournée in Europa. Vengono fatte queste magliette che tu fortunatamente possiedi, e quella fu la maglietta più venduta alle Olimpiadi di Barcellona, compresa quella con il Dream Team sopra. Fu la maglietta più venduta alle Olimpiadi di Barcellona, con i proventi di quella vendita e con quel logo ceduto ai Grateful Dead, la Lituania si finanziò, tanto per dire, anche l'Olimpiade successiva. Perfetto, e tra l'altro una maglia che è stata riproposta anche nell'edizione successiva delle Olimpiadi. Sì. Ma se vuoi sconfinare nella leggenda, e qui la lascio aperta la risposta, sì. Se tu noti, quando vanno a ritirare la medaglia, sì. la statura media della Lituania improvvisamente si è abbassata, perché manca Arvydas Sabonis. Già. Ma anche Arvydas Sabonis, lasciamo alla leggenda dire dov'è in quel momento. La leggenda dice che dov'era? Nello spogliatoio, ma in che condizioni? Aveva bevuto 8 ettolitri di vodka ed era, si era addormentato nel dormitorio femminile. La leggenda narra. Questa è la leggenda. Tieni presente, c'è un altro aneddoto. Omicius durante la partita riceve un colpo, sì. Sanguina, sì. E il presidente della neocostituita Lituania gli telefona dicendo: Omicius, non ti preoccupare, perché questo è sangue che stai sputando per la Lituania. C'era l'unico rappresentante della Lituania ai giochi che era vestito con quella divisa, che vi invito, la twittiamo, Franco Piantanida, la mettiamo su Twitter, andate a vedere quella fotografia con i giocatori, come erano vestiti i giocatori lituani sotto gli sguardi atterriti del CIO, di tutti i delegati olimpici. Non so se c'era anche Pescante. Secondo te questa la sa Pescante, Alberto? Com'è? Questa storia la sa Pescante? Non lo so, non la sanno in molti queste storie. Anzi, se posso fare un invito, Carlo, sì. C'è un bellissimo documentario che è l'altro Dream Team, che si può trovare tranquillamente, no? Nei canali che si sulla rete, e merita di essere visto perché questa storia la racconta molto molto bene. Sì. È in lingua lituana, ma non occorre, credo, nessun tipo di traduzione per capire lo spirito. Anche perché, Alberto, ti ringrazio e ti saluto qui, complimenti per quella maglietta che vorrei tanto anch'io, ma ormai non ce l'ho e sarà irrecuperabile, irrintracciabile. Per completare la storia, allora, la Lituania andò sul podio perché? Perché dopo aver perso la semifinale con il Dream Team, senza ovviamente rimanere troppo in partita, giocò la finale per il bronzo, con chi? Ovviamente con la comunità degli stati indipendenti, cioè quello che restava dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti di Russia, in quel momento, vincendo di 4 punti, quindi medaglia di bronzo con i nemici, non solo sportivi. 800240024, Paolo da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Adesso lei mi parla di arbitri e mi scende la poesia. Mi cala la libido, mi cala la libido, lo so già. Senta, noi come voce non so se mi riconosci, io sono quello di Che ci fa Cavani a Napoli. Che ci fa Cavani a Napoli. Se non ricordo se è fatta una risata, vabbè, sì, lasciamo perdere. Me lo ricordo. Purtroppo serve adesso in più a quelli che già ci sono, purtroppo. Lasciamo stare. Comunque. Praticamente ieri abbiamo visto che Higuaín segna senza toccare il pallone. Praticamente. Cioè? È stata incute terrore. Ma no, sì, timore. Lei si sta riferendo a Del Grosso, a quella sceneggiata molto comica. Sì, ma probabilmente anche qualcun altro sarebbe capitata la stessa storia, perché praticamente uno che lo deve marcare non sa dove sta, perché scappa da tutte le parti. Praticamente pensano a guardare lui, a non guardare il pallone. No, ma lì più che Higuaín guardava il guardaline, perché guardava il guardaline. Sì, si è girato, dire, oh, figli, tieni su sta bandiera, e la palla gli rimbalza sulla schiena e insegna e fa gol. Sì. Va bene. Comunque siamo soddisfatti come stanno andando le cose. Poi vedremo che cosa di bello ci esce fuori. Ma intanto mi sembra che, insomma, le notizie di possibili acquisti sul mercato siano interessanti. Speriamo. Comunque fate bene adesso, soddisfatti di quello che state facendo, perché il Napoli sta facendo, secondo me, una eccellente stagione fin qui. Si può fare meglio, si può fare meglio. Uno come Callejon praticamente potesse esplodere in questa maniera. Era fatto forse, allora sono indeciso tra il gol di Florenzi domenica e quello di Callejon ieri. Lei quale preferisce? Io ho capito, ma Napoli. Non faccia il tifoso a tutti i costi. Tecnicamente, quale preferisce? Onestamente, non si può parlare con lei, troppo tifoso. Sto scherzando, Paolo. Ma se non fossi tifoso, io non l'ascolterei. No, ma sto scherzando. Ma lei sa benissimo che sto scherzando. Invece è un piacere parlare con lei. Ci mancherebbe altro. Forse, io veramente non so decidere. Perché Callejon ieri ha fatto un gol di una bellezza stordente. Secondo me, non so in quanti l'hanno visto, spero in molti, magari non in moltissimi avranno visto quella partita, perché la Coppa Italia è per voyeur, però invito ad andare a vedere, ormai con qualunque supporto si può vedere quel gol meraviglioso, col pallone che arriva dalla sinistra. Chi ha fatto il passaggio non mi ricordo, no, non si ricorda neanche Paolo, che comunque saluto, non è più in linea. Poi questo traversone che arriva da sinistra, Callejon appostato dalla parte opposta, cioè sulla destra dell'area di rigore, che tira al volo questa sassata in diagonale. Gol veramente da cinema. Va bene ragazzi, ci siamo divertiti anche oggi, lo faremo pure domani dalle 14.10, dopo 14.08, dopo il GR delle 14, fino alle 15.20 come ogni giorno. Ringrazio Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Fallo tu. Mezzanotte sai che io ti cercherò, e ovunque tu sarai sei mia. Ma adesso, ecco, grande Pardo, qualità, grande timbrica. Voto, Pardo? No, bene. Grande interpretazione. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso, mm-hmm. E splendido nell'ombra apparirà. Devo provare a fare mica. Tu hai una luce bellissima nella tua voce. Tu hai fatto sposato tutto tuo cuore, è venuto fuori. Mi hai fatto sentire i farfalle. No, sei stato bravo, veramente. Tutti convocati. Tutti convocati.